Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Per l'apertura del tendalino dobbiamo andare a prendere l'asta, normalmente posizionata in un gavone, è telescopica. In camper si sta bene, non ci sono problemi di scarafaggi. Quando ci mettiamo in cucina, rimuoviamo il repiano da tagliere in modo che non ci dia fastidio. Creiamo aerazione perché in ogni caso utilizziamo una fiamma libera ed è ottimo anche per smaltire i vapori. E vi spieghiamo le pentole che intendiamo utilizzare. Allora, il sensore di parcheggio che noi abbiamo acquistato su internet alla modica cifra di 8,80 euro. Il pacco è arrivato, eccolo qua, parking sensor, eh? Niente, ora sto verificando il contenuto della confezione, centralina. La trasmissione di oggi è semplicemente la conferma di alcune mie curiosità, o perlomeno la soddisfazione di alcune mie domande. Ho pochissimi dati su quelli che sono i camperisti italiani. Gli italiani che scelgono di andare in vacanza dentro un camioncino attrezzato, dove immagino non sono mai entrato dentro un camper, o perlomeno non ho memoria di miei ingressi fisici all'interno di un camper. Immagino dentro ci sia di tutto, ogni ben di Dio: la cucina, il salotto, le camere da letto, il gabinetto, la doccia, la vasca con idromassaggio. Lo immagino come una sorta di antico fumetto, cartone animato, Don Topolino, Pippo e Paperino, che vanno in camper e c'era tutto dentro. Cambiava improvvisamente, si chiudevano i letti, usciva la vasca da bagno, si apriva una console, c'era il salotto, una cosa fantastica, meravigliosa. Immagino che dentro ci sia un concentrato di tutte le meraviglie possibili, sia un passaggio in un'altra dimensione. Io li guardo sempre dall'esterno, li guardo nelle file in autostrada, li guardo parcheggiati lungo i laghetti italiani, li guardo sulla riva delle zone boschive italiane e vedo sempre persone felici, persone che sembrano appartenere a un'altra parte di umanità. Sono persone che scelgono di andare in vacanza in maniera naturale, plein air, con il camper. Hanno tutto dietro, tutto addosso, come se fossero delle tartarughe. Dietro ci sono le biciclette attaccate, sopra ci sono le taniche. Sembra che sono pronti ad affrontare qualsiasi percorso, qualsiasi asperità e qualsiasi zona del nostro territorio. Non ho notizia degli italiani come si comportano con i camper all'estero, ma oggi volevo fare la radiografia a voi, camperisti italiani. Vi guardo, vi invidio, sono curioso. Voglio sapere cosa accade dentro i vostri camper. Perché scegliete il camper? Immagino la prima risposta sarà perché costa meno. No, non ci credo. Non credo sia soltanto una questione di risparmio economico, perché oggi sono gli alberghi diffusi, i bed and breakfast, le stanze in affitto. Oggi il turismo dà delle possibilità estreme per viaggiare, alloggiare e spendere poco. No, c'è qualcosa in più. Voi siete persone diverse e voglio capire perché. 800 24 0024. Oggi la trasmissione è dedicata ai camperisti italiani. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Perché hai parcheggiato lì? Ci andiamo in vacanza. Alle Hawaii? No, non galleggia. In Colorado. Da sempre volevate fare campeggio. Non siamo tipi da camper, non ci siamo tagliati. Perché? Perché? Lo chiedi pure. Beh, primo ci piace fare la doccia. Ma la doccia c'è, dai, andiamo a provarla. Facciamoci la doccia insieme. Bob, sai dove si sta quando si viaggia in camper? Dove? Nei campeggi per camper. Tesoro, ricordati, non siamo gente socievole. Alle Hawaii non vedremmo mai i ragazzi, così invece ce li godremo tutto il giorno. Oh. Oh. 800 24 0024. Voglio sapere tutto degli italiani in camper. le loro angosce, le loro gioie, i loro segreti, le loro limitazioni. Già leggo in rete che ci sono delle campagne contro le barre anti-camper. Nei parcheggi mettono una barra in modo che non possano parcheggiare i camper e dicono che sia illegittima perché hanno paura che uno vada lì col camper, lo parcheggia, ce lo lascia per sempre, o perlomeno vada nel parcheggio col camper, poi scarichi, faccia di tutto, quelle cose che non fanno i camperisti normalmente. Quindi la barra anti-camper è uno dei primi elementi di limitazione, quel brutto cartello divieto con dietro il camper, non possono passare per qui i camper, è un tuffo al cuore, è una coltellata. Ecco, vogliamo sapere esattamente quali sono i problemi del mondo visto dal finestrino del camper. Daniela, buongiorno. Buongiorno, allora noi abbiamo scelto il camper, siamo due pensionati, quindi la nostra disponibilità di tempo è più grande di chi lavora. Abbiamo scelto il camper per il grandissimo senso di libertà che ci dà. Cioè avete comprato il camper quando siete andati in pensione? Esatto. Dice, da oggi andiamo in giro per il mondo. La mia è il camper. Non sono molto d'accordo sul fatto che uno scelga il camper perché è economico, perché d'accordo sarà economica la gestione, ma all'inizio c'è un grosso investimento. Quanto avete speso per il vostro camper? Circa 40.000 euro. E ci comprerate una casetta quasi in una zona. Insomma. Sì, però la casetta non ti permette di andare una volta in riva al mare, una volta in montagna, in riva al lago, magari è in un paesetto di montagna, però le stelle non riesci a vederle perché ci sono i lampioni. Allora Daniela, mi spieghi un po' di cose, visto che sono totalmente ignorante. A voi potete parcheggiare ovunque, dormire ovunque o bisogna andare per forza nei campeggi dove c'è altra gente? Allora, noi abbiamo scelto di proposito un camper le cui ruote stanno dentro il parcheggio, dentro le strisce di una macchina. Un camperino, quindi? Sì, beh, comunque ci si può dormire in quattro, quindi... Ma quei letti a castello, com'è dentro? Esatto, no, dentro c'è un letto che sparisce, cioè che si è appoggiato al soffitto, di notte si tira giù e quindi ci si riesce a dormire, è un letto matrimoniale. E sotto ci sono i due divanetti che diventano due letti. E voi dormite anche, diciamo, all'addiaccio, così in mezzo a un campo, a un bosco? Ma allora, prima di tutto, per ragioni di sicurezza, non dormiamo da soli, logicamente. Cioè andiamo su posti dove vediamo ci siano altri camper. Per dire, quest'estate abbiamo dormito 2-3 notti in riva al mare a Monopoli, dove si vedevano le stelle, bellissimo, ma c'erano altri 2-3 camper. Ma la legge non lo vieta di stare fuori, di dormire fuori? Allora, la proibizione è di mettersi fuori. Possono proibirti di metterti fuori con le sedie oppure di mettere il tendalino, quello sì. Per esempio, io non so, perché in riva al lago di Garda, per esempio, abbiamo visto che non si potevano parcheggiare i camper neppure nei posti dove potevano parcheggiare i pullman. Cioè, in Trentino, da quello che abbiamo capito, vogliono per forza che tu vada nelle aree attrezzate, cioè non ti permettono di andare neppure appunto nei parcheggi. È perché hanno paura che uno poi scarichi i suoi bisogni lì nel posto, no? Ma vede, secondo me le persone si dividono in due categorie, le educate e le ineducate. Quelle educate hanno scoperto che per esempio in autostrada ci sono già le aree di servizio che ti permettono di scaricare e caricare, quindi non ci sono neanche costi su queste, per cui non è un problema, insomma. Però molte volte io ho visto in altri laghi, non so, una volta mi è capitato di passare in Abruzzo per un lago, tutto il perimetro del lago era circondato da camper stanziali, poi avevano aperto le tende, le tendine, le cucine, cioè avevano, diciamo, era una sorta di accampamento che penso che era abbastanza prolungato nel tempo, perché la gente si vedeva che poi lì installata, e quindi avevano preso possesso di un territorio. Questo secondo me però non è possibile farlo. Una domanda. Beh, è possibile farlo a gruppi di tanti camper nelle aree attrezzate. Ma non attrezzate, no, io non posso andare con tre amici, con altri tre camper, vedo un bel tramonto sul mare, fermiamoci qua, guardiamo il tramonto, si può fare questo? Una domanda. Se non apri la tendina, se non fai certe cose, lo puoi fare. È come fermarsi in macchina, nel diciamo. Nel momento in cui il camper è come una vettura, cioè se lei è in macchina, non è che c'ha la tendina da piazzare, ecco, questo sì. Genere. Se lo tratti da vettura, secondo me ti puoi fermare da qualsiasi parte, tranne appunto non ci siano aspetti specifici, divieto di sosta di camper. Ho capito perfettamente. Grazie Anela. Irmo, buongiorno. Camperista. Buongiorno. Vediamo se Buongiorno. Riesce a darmi qualche altro elemento in più. Quali sono le maglie larghe dei regolamenti nel quale si può muovere il camperista che vuole vivere una vita avventurosa? Ma sostanzialmente il camperista sceglie questo tipo di vacanza non perché ci siano dei fattori economici sotto, e quindi è uno stile di vita. E io, per quanto mi riguarda, la mia esperienza, io cerco sempre di adeguarmi alle regole del posto dove vado, cerco di non disturbare, perché la cultura del camper, specialmente in Italia, non è così diffusa. Tant'è vero che io frequento più che altro, quando viaggio, vado all'estero. Mi spieghi le differenze, però, questo è importante. Guardi, le differenze riguardano le capacità ricettive. Io faccio un esempio: se lei va in un posto come la Croazia, e più specificatamente l'Istria, troverà delle strutture che possono ricevere fino a 5.000 persone, con tutto quello che possono offrire i campeggi, le strutture, diciamo, i villaggi moderni, piscine, ristoranti e quant'altro. Poi io personalmente associo a questo tipo di vacanza un'ulteriore vacanza, perché dopo il mare vado in montagna e quindi ho la possibilità di fare tutto quanto, premesso che ho tre figli e il cane, che non in qualsiasi altro albergo non... Ma mi faccio capire una cosa interessante: quando uno viaggia col camper, cerca belle zone attrezzate con piscine, ristoranti, agriturismi, in cui manca soltanto l'alloggio, lui mette il camper, o in realtà è una sorta di vita un pochino più brada, come quando noi andavamo in giro con la tenda, ci fermavamo ovunque, piantavamo la tenda, insomma un contatto con la natura? Perché io leggo alcuni messaggi in rete di camperisti, si lamentano ad esempio che gli agriturismi non sono attrezzati nel dargli la colazione al sacco, perché loro se la vogliono mangiare dentro il camper, non certo, all'interno dell'agriturismo. Ecco, mi spieghi un po', faccia capire un po' le differenze. Guardi, io appartengo più che altro alla prima categoria, quella di cui parlava lei all'inizio, delle persone che il camper lo usano come senso di libertà, ma cercano tutte le comodità e tutte le gli agi che uno può trovare in vacanza, per cui noi spesso andiamo in posti dove sono centri termali, specialmente in Slovenia, sono molto attrezzati per la ricezione del camper. Addirittura in Slovenia c'è un posto dove, non lo pubblicizzo per ovvi motivi, dove praticamente tu puoi fare la mezza pensione in albergo, usufruire della... dei servizi, dello spa, delle piscine e quant'altro, compreso in un costo irrisorio. Noi in 5 persone con tutto questo pagavamo 90 euro al giorno, compreso tutto quanto. Però dormivate nel camper? Dormivamo nel camper, anche perché il nostro camper ci dà la possibilità di avere aria condizionata, TV satellitare su due televisori in HD, tanti vantaggi che io ho, il vantaggio è che lei ha una struttura, può fare bagno, doccia con tranquillità, certo, usare certo un bagno un pochino meno angusto di quello che sarà, per quanto bello, quello di un camper, e va solo a dormire nel suo camper. Sì, no, ma anche ci sono anche esperienze tipo posti un pochino più rudimentali, come per esempio c'è nel sud a Castellabate, un'area attrezzata molto rudimentale, però che con 3 metri stai su una spiaggia incontaminata. Ecco, una volta che lei l'ha parcheggiato il camper, quelle biciclette che vedo attaccate dietro, vi muovete in bicicletta voi? Sì. Ah, quasi tutti in bicicletta, anche dei motorini delle volte vedo, dei piccoli. Sì, però ecco, la bicicletta è più pratica, si sposa più con lo stile della vacanza, con la natura. Il motorino o la moto hanno più attenzione, quindi uno quando sta in vacanza cerca assolutamente anche di avere qualche agio in più, insomma. Quindi mi sembra di capire, funziona così: si parcheggia in un posto piacevole e con delle strutture di supporto rispetto a quello che fornisce il camper. Una volta parcheggiato, si rimane stanziali più o meno per quanto tempo? Io il massimo posso rimanere 5-6 giorni nello stesso 5-6 posto. Giorni, e ci si muove in bicicletta, quindi sì, si va in giro, si fa il bagno, ci si lava, si mangia, la sera si va tutti a dormire dentro il camper. Sì. Voi siete una famiglia, siete? Sì, 5 persone. Tutti dentro il campo, tutti e 5. Sì. Certo, è una vacanza molto promiscua, questo c'è da dire. Comunque fa parte dell'idea, non è come si va in albergo, ognuno ha la sua stanza, sta tranquillo. Si decide di fare il viaggio da tribù e si sta tutti assieme. È questo il bello. Molto chiaro. Fermiamoci un istante, 800240024. Stiamo cercando di capire. Era una mia curiosità, non ne sapevo nulla. Come si vive dentro i camper? Aiutatemi a capire meglio. A tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Avevo proprio questo desiderio, il desiderio di viaggiare sul campo e quindi di portarmi la mia casa con me, la mia cucina, le mie tradizioni, la mia famiglia, così. E questa è stata un'esperienza... Energia, tantissima energia ci vuole in un camper. Esatto, anche perché adesso un camper è paragonabile a una villetta viaggiante, quindi si vuol dire che i pannelli solari o cosiddetti fotovoltaici sono ormai indispensabili su ogni automezzo. Qui potete vedere una vasta gamma di pannelli. È avantissimo questo signore, 800240024, questa di oggi è un'indagine antropologica sul territorio. Voglio definire l'italiano medio camperista, cosa fa, cosa pensa, come si comporta. Finora hanno parlato i camperisti, gli anticamperisti scrivono SMS è stato sempre lo strumento, il mezzo di partecipazione rabbiosa a questa trasmissione, quelli che ti scrivono dopo 30 secondi che parli, basta, cambio stazione, cambio radio, ma è stufato, un imbecille, sempre le stesse cose, sei vecchio, trova persone più giovani, ecco, quelli mandano SMS, perché ci hanno già preordinato. Infatti cosa possono dire dei camperisti? Tutti zingari i camperisti, dice Andrea. Un altro signore, Stefano, dice che scaricano ovunque con i loro camper, lui passa in moto e deve fare lo slalom sull'autostrada con i rifiuti, quasi dei bombardamenti, degli iezioni dei camperisti. Poi andiamo ancora avanti, uno conosce due pensionati che avevano trasformato un ducato in camper, una sorta di bricolage umarellico, e ci hanno girato l'Europa. Un altro mi dice, non si può dire, ma la barra nei parcheggi anticamper è per gli zingari, per la feccia. Ma io di zingari che viaggiano in camper sono secoli che non ne vedo, gli zingari mi sembra che ormai siano abbastanza stanziali. Comunque può anche essere che qualcuno l'abbia messa perché non ci vengano persone che poi occupano il parcheggio e non se ne vanno più. Altre persone mi dicono che i camperisti sfruttatori dei territori, spilorci come nessuno, non spendono una lira nelle città, scrocconi. Questo probabilmente è un albergatore, un ristoratore, ci arrivano con i loro camper, fanno la spesa al supermercato, si mettono lì sul tavolino, mangiano, cucinano, occupano spazio, vedono, visitano e non spendono. Questo è un altro dei problemi. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, Fabrizio, lei è un camperista, anticamperista, filocamperista, odiatore dei camper. Mi spieghi la categoria a cui appartiene? Ma moderatamente odiatore dei camper. Ah no, perché bisogna essere equilibrati. Non dei camperisti, dei camper. Odia il camper. Perché odia il camper? Ma sostanzialmente perché io sono cresciuto in un luogo di mare. Diciamo che verso la fine degli anni Ottanta il camper è diventato un bene, diciamo, di consumo quasi di massa. La gente ha iniziato a comprarcelo con la liquidazione di operai anche, oppure con i piccoli risparmi. Come diceva la prima ascoltatrice, appena vai in pensione compri il camper, è una scelta di cambio di vita, diciamo. Sì, di ipotetico cambio di vita. Perché ipotetico? Perché poi dopo prendono questa lumaca viaggiante e si mettono a fare la stessa vita, diciamo, che facciamo tutti a casa, un po' pidocchiosa, un po'... Infatti si parlano sempre solo di quanto ho comprato e pagato questo, quanto ho comprato e pagato quell'altro. Però sostanzialmente quello che volevo dire non era questo. Quando è iniziato a aversi questa enorme diffusione del camper, per le persone che vivevano sul mare sostanzialmente, è iniziato un assedio terrificante. Addirittura passando sulle strade litoranee, sull'Aurelia, eccetera, eccetera. Ma a un certo punto il mare è diventato un'entità scomparsa, c'era questo ininterrotto muro di bianco, di camper uno attaccato all'altro per chilometri e chilometri, finché le amministrazioni non sono intervenute con le barre, con i giusti divieti, perché sennò non si faceva più vita. È quello che un po' ho detto, che avevo visto io recentemente passando per l'Abruzzo, un lago totalmente circondato in tutto il perimetro da camper. Stanziali poi, non erano lì di passaggio, c'era gente che aveva messo le tende, tavolini, cucine, cioè un accampamento, diciamo, un vero e proprio accampamento. Ma accade questo? Accade ancora? Ma diciamo che il territorio ha iniziato a difendersi, quindi... sono state create delle aree dove loro possono andare e dalle altre parti sono poco tollerati, ma anche dalla popolazione sono poco tollerati, anche perché poi questa enorme massa di persone che arriva lì con le loro giuste esigenze, perché devono mangiare, devono bevere. Beh, come tutti gli esseri umani, quello sì. E poi devono, però tutto questo produce rifiuto, produce deiezioni, eccetera, eccetera. Questo se la cosa non viene regolata diventa un problema insormontabile in certi punti, in certe zone. Quindi c'è questo problema comunque, l'aspetto diciamo caratteriale, che c'è un'accoglienza che li vede come micragnosi che vengono lì e non spendono, e questo è dato di fatto che registro gli SMS, perché non voglio fare una trasmissione, non faccio l'ente promozione Camper Italia, dico semplicemente il territorio reagisce così, vede persone che arrivano, non usufruiscono delle strutture locali, quindi non alloggiano, non mangiano, non dormono, e in realtà poi hanno una sorta di disordine nell'occupare il territorio, nei posti belli parcheggiano quattro camper e uno deve vedersi un paesaggio con il camper con lo sfondo come quinto. Marinella, buongiorno. Invece? Pronto, buongiorno. Sì. Intanto complimenti per la trasmissione. Voglio dire una cosa. Lei è molto anziana, Marinella? Prego. Molto anziana, No, ho 63 anni. Andavo in camper anche quando viaggiavo. No, lo sa, devo domandarlo a tutti, voglio capire, sto facendo un autofocus sul mio pubblico. Quindi... Il disordine che deriva dal fatto di questi camper che affollano e impediscono è perché, come sempre, noi in Italia siamo in ritardo di 20-30 anni rispetto alle altre nazioni europee. Non ci sono regolamenti, lei dice. No, ma non ci sono organizzati, noi non abbiamo ancora pensato a questa grande possibilità di attrezzare spazi, territori, zone turistiche anche per i camper, anche per i campeggiatori che si sono evoluti e sono passati dalle tende all'organizzazione anche un po' più ricca che viene permessa dai camper. Quindi allora, da ragione che... Marinella, da ragione a quelli che dicono il camper sta bene, però va nei campeggi, va nelle zone attrezzate. Cioè, noi abbiamo fatto sempre così, inoltre siamo evoluti e quindi usiamo il camper per andare a visitare i borghi più belli d'Italia, andiamo nei musei, andiamo nei ristoranti, abbiamo il motorino, giriamo, facciamo turismo evoluto, ma la nazione deve offrire a questa massa di persone interessate con famiglie, bambini, cani, animali che vogliono sfruttare il territorio e godere i grandi benefici di questa nostra Italia. Quindi Marinella, vediamo se ho capito bene, esiste comunque generalmente, come sempre in tutte le fette del nostro paese, persone che usano in maniera maleducata una chance, però se queste aree di mare, di montagna, di campagna, di città d'arte fossero attrezzate per il camper come entra nella città, vede il cartello e dice qui puoi parcheggiare, qui puoi scaricare, qui puoi ricaricare l'acqua, qui necessariamente devi rimanere perché non puoi metterti in mezzo a un prato, a un campo sotto gli alberi, perché non è più il tempo che il camper può essere usato come una tenda canadese negli anni 70. È questo il concetto? Dobbiamo favorire il turismo e dobbiamo dare aree, organizzare, gestire con intelligenza quello che a noi manca. Quindi chi si lamenta del camper vuol dire che in quel posto non c'è un'area attrezzata, non c'è un regolamento che dice il camper o qui o niente. Mi sembra chiaro. Gian Piero, buongiorno. Salve Nicola. Aggiunga elementi al nostro dibattito. Allora, io sono un vecchio camperista da tantissimi anni, ho 58 anni, ho cominciato con la canadese, ho passato la roulotte e ad ora il camper da parecchi anni. Ho girato praticamente tutta l'Europa, Islanda, Stati Uniti, Canada, sempre e solo in camper, Nord Europa, Francia. L'Italia la sto girando man mano, la conosco abbastanza bene. Il mio è un tipo di... viaggio itinerante nella storia dei nostri borghi. Se giro in Italia è di visita e di spesa, perché il camper non è risparmio, è una filosofia di vita. Non ho mai sporcato e non ho mai avuto niente a che dire con nessuno, e chi dice che il camperista sporca forse non è un vero camperista. Quindi esiste diciamo un'etica di comportamento del vero camperista, esiste il camperista che in realtà usa il camper come una maniera per occupare territorio, ma guardi, c'è gente che parcheggia le macchine sulle strisce per i portatori d'handicap davanti ai portoni, penso sia la stessa cosa anche nella vostra categoria, ci sono camperisti disordinati che usano in maniera sguaiata quella che è una chance. Certamente è così, ma qui si entra dentro l'educazione della persona. Guardi, io venerdì partirò, io abito a Vercelli, quindi non sono molto distante da Torino, farò con mia moglie, andremo via 4 giorni, sfruttando questo weekend mi sono già programmato le mie visite in area reale, Ravello con le varie Alba, Frabusa Sofrana e poi andrò a Vicoforte a vedermi. Ecco, ma quando si ferma in questi posti, lei ha già una mappa dove andare a parcheggiare, dove andare a fare le cose che deve fare di manutenzione? Allora, ci sono, per esempio, so che ci sono in alcuni posti, ci sono delle aree attrezzate, per esempio so che Alba dovrebbe essercene una, ma poi la cercherò quando c'è. E se non c'è, come provvede? Cosa fa? Provvedo, allora, innanzitutto cercando un posto che non sia completamente isolato, un posto, una piazzetta che dove non arreco disturbo a nessuno, mi fermo e lì ci posso passare la notte. Però non scarica il bagno, non lascia? Ma mai assolutamente no, perché ci sono le aree apposite per andare a scaricare. Quando io sento dire che uno deve fare gli slalom attraverso i rifiuti del camper, mi scusi, ma io non butto fuori neanche quando vado in macchina un pezzettino di carta. Si immagini se io posso andare a sporcare... È molto chiaro, Serafino, ma ha creato il discrimine, la differenza fra l'etica del camperista puro come lei e il camperista, diciamo, parvenu, che usa il camper come strumento di conquista, come carro da guerra per l'oltraggio del territorio. Diciamo che è così. Ci fermiamo un istante. Melog. Cronache meridiane. Io sorrido pensando che c'è un desiderio d'astio, di espressione d'astio così diffuso che ogni pretesto è buono. Qualcuno se la prende con i camperisti, attribuendo ai camperisti anche categorie dell'esistenza, filosofiche, politiche, che in realtà non sono provate, e nonostante ciò sono pure cattolici, che vanno ogni Family Day, sono cattolici come Berlusconi solo di facciata. Cioè, con tutto il rispetto per le opinioni, adesso che c'entra con i camperisti, se sono cattolici, berlusconiani, renziani, vegani, sono fatti loro, non è questo il fatto. Poi continuano a arrivare comunque le precisazioni sul fatto che siano pidocchiosi, spilorci, ci hanno speso tanti soldi per il camper e quindi non mangiare pane e cipolla. Esiste una sorta di razzismo generico e pregiudiziale nei confronti del camperista. Viene associato a un nomade, a uno zingaro, quindi dà fastidio. Ecco, questo è un dato di fatto che ho capito questa mattina, non lo sapevo. Allora, abbiamo una telefonata adesso, la telefonata del Fabio. Fabio, buongiorno. Ciao, buongiorno Nicoletti. Vi sentiamo. Dunque, allora, io sono un camperista da circa 10 anni, dopo aver fatto forse 30 anni di campeggio, e sono forse un camperista un po' atipico perché non amo la commistione con gli altri camperisti, non approvo la stragrande maggioranza degli atteggiamenti di altri camperisti che arrivano e si appropriano dei territori facendo tutto quello che vogliono. Quindi lei è contrario a questo senso di carovana, una fratellanza, si salutano tutti insieme, come nel Far West? No, assolutamente no, diventa come il volersi fare necessariamente gli affari del vicino, perché vuoi sapere che cosa mangiano in casa. Mi dicono una cattiveria, Fabio, le risulta che molti scambisti siano camperisti? Me l'hanno scritto. Ci vanno col carro. Si mettono perché... tutti insieme, poi chissà. Cosa mi è arrivato un messaggio su questo? Vabbè, una domanda. Non ne ho la più pallida idea, anche perché diciamo che noi abbiamo un'idea del camper che è più forse orientato al senso di grande intimità che puoi ritrovare all'interno del camper come a livello familiare, anche perché noi siamo una famiglia composta da 3 persone con un bambino di 8 anni e con una grande unità familiare, quindi di conseguenza amiamo trascorrere tutto, diciamo, il la verità, tempo possibile. Una vacanza familiare fatta in camper esclude l'assolvimento del debito coniugale, non è che puoi mandare il ragazzino in camera e gli accendi la televisione. Si fa una vacanza, si sta tutti assieme, si rinuncia a qualcosa, questo va da sé. Ma diciamo che il discorso della rinuncia, io penso... E dove lo mettete? Lo sedete davanti? No, beh, a parte il fatto che ci sono tempi e modi per fare tante cose e non credo che uno si debba necessariamente concentrare solo ed esclusivamente... Sì, ma infatti, ma uno per un mese può anche starsene tranquillo, no? No, beh, allora, visto che noi abbiamo dei tempi di vacanza ben più brevi rispetto al mese, magari, che uno potrebbe stare in giro, quindi non abbiamo quel tipo di problematica lì. In più, il camper è uno di quegli ambienti estremamente intimo. Io per esempio ho venduto il camper che avevo prima, mio figlio mi ha obbligato immediatamente a ricomprarne un altro perché per lui è stato un trauma. Io penso che i bambini si divertono da matti comunque, sì, i ragazzi. Sì, anche perché hanno tutto a misura, è tutto a misura di bambino all'interno del camper, però condivido diciamo l'idea di molti di diciamo contrari ai camperisti, perché io per tanti anni sono stato in ambienti dove c'era la possibilità di sostare gratuitamente in aree vicino al mare, cose di questo genere qua, e vedevi proprio che si appropriavano del territorio come se fossero loro i padroni, organizzando addirittura gli spazi per la gente che arrivava, magari dando il benestare o il rifiuto ad altre persone che non facessero parte del clan che si era creato, diciamo, nella zona. Quindi esiste comunque una zona grigia che stiamo investigando, esiste un'appropriazione, quasi una colonizzazione temporanea e transeunte dei luoghi di campo. È importante. Zineb, buongiorno. Zineb. O sì, Zineb. Zineb. Io volevo dire sulla mia, per quanto riguarda il camper, io l'ho comprato a gennaio e ci sono un sacco di aree di sosta in giro per tutta l'Italia, e non è vero che, insomma, dopo dipende dalla persona, di suo grado di civiltà, insomma, però posti dove puoi scaricare i tuoi escrementi, le tue cose, l'acqua, basta informarsi, andare su internet e vedere le aree di sosta che te lo permettono tranquillamente, insomma. Vabbè, lei difende la categoria, è giusto. Aldo, buongiorno, vediamo Aldo. Pronto? Sì, Aldo. Ciao Nicoletti, siamo coetanei. Mi dispiace per te. Vabbè. Ah, ascolta, in questo momento. Se eri giovane era meglio. Vabbè. Era la fascia giovane del pubblico che mi sfugge, che devo raccattare. In questo momento sono in camper in Toscana, 50 metri dal mare, bellissimo, poca gente. Ma dove hai parcheggiato? Dove hai parcheggiato? No, un'area di sosta normale, attrezzata. Ah, per camper. Si paga 5 euro al giorno, hai l'acqua, hai lo scarico, perfetto. Sei a 50 metri dal mare. Io sono qui con due cani. La prima osservazione è: difficilmente potrei, se non avessi il camper, trovarmi in questa situazione. La seconda, ieri sera una che mi ha preceduto diceva: per motivi di sicurezza i camperisti in genere tendono a parcheggiare, diciamo, dove ci sono altri camper. Ieri sera sono arrivato, ero da solo, dopo un po' è arrivato un camper di tedeschi. Abbiamo fatto una chiacchierata, alla fine abbiamo deciso di cenare insieme. Ecco, la seconda cosa che volevo sottolineare, a parte il discorso degli animali, è questa possibilità di incontrare gente, di conoscersi, diciamo, si familiarizza molto facilmente. Questo è un altro vantaggio. Carmela, sentiamo Carmela. Carmela? Pronto? Sì. Pronto, mi sente? Sì. Sì, buongiorno. Niente, volevo dare il mio contributo anch'io come camperista, perché il camper ci ha dato una nuova, come diceva prima l'ascoltatore Serafino, una nuova filosofia di vita, di far vacanza. Ci ha permesso di fare dei viaggi in Europa molto belli, e la cosa più bella è quando ti fermi sui campeggi o sull'area di sosta, che è possibilità non solo di conoscere posti, ma anche conoscere persone. Quindi si familiarizza. Lei, esatto. Per questo qualcuno mi scrive, dice: ci sono tanti scambisti, vanno in giro con il camper e poi si scambiano mariti e mogli. No, questo no. Vabbè, però sarà successo. Io ricordo benissimo, per esempio, una coppia di belgi che abbiamo conosciuto in Austria, ma persone squisite che ci raccontavano dei loro viaggi, delle loro cose. Quindi parli anche, ti scambi anche notizie su com'è veramente un paese. Diciamo che lo scambio culturale può essere di varie gradualità. Grazie. Un'altra cosa, per quanto riguarda il discorso che dicono che molti camperisti non spendono, io invece mi ritengo di una di quelle categorie dove non parto mai col frigo pieno, ma mi piace comprare le cose del posto che vivo. Beh, vorrei vedere che parte con le sottilette nel frigo. Serafino, chiudiamo con Serafino. Eccoti Serafino, tutto per te. Lenzuolo di un camper. Cosa dicevi, Serafino? Però non parlare col viva voce. Dimmi, Serafino. Serafino, sei autoeliminato. No, io sono cellulare, vi ho dato il numero del cellulare che ho qui vicino a me. Sì. Comunque, mi dica. Niente, se non... Le lenzuola, sento. No, niente, se volete sentire qui l'intervento lo faccio, altrimenti. Fallo, ti sto aspettando. Dimmi. Grazie. No, sono in comunicazione con la regia, ma hanno sbagliato i nomi, citano un Serafino. Vabbè, Serafino, stai parlando con qualcun altro, Serafino? Con benissimo. Chi sei? Vabbè, Serafino, purtroppo in questo momento c'è problemi di comunicazione. Grazie, non so con chi sta parlando, sinceramente. Era per radio, Serafino. Quello che voleva dire, Serafino, ci volete mettere l'odore delle proprie lenzuola con quelle... Ah, Serafino, o lo dici o non lo dici? Perché fa un po' male. Sì, stavo dicendo. Sì, dillo. Che altro che zingari. Io ero abituato ad andare negli alberghi e ad un certo momento mi sono stancato di dormire su materassi dove hanno fatto di tutto gli altri, anche se sono alberghi a 5 stelle, mentre sul mio materasso e con le mie lenzuola faccio quello che mi pare, compreso i bagni. Va bene, contento. Il Serafino trovava i peli nelle lenzuola in albergo e quindi è andato nel camper. I peli sono soltanto i suoi, quindi vive del suo pelo. Grazie Serafino, grazie Camperisti. Alla prossima.